Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Bentornati all'ascolto. Questa puntata, come di consueto, è anche di Riccardo Silvi, il nostro redattore, di Alessandro Chiappini, il nostro regista, e sarà di Giorgio Rivieccio. Benvenuto. Buongiorno. Giorgio Rivieccio è neo direttore di una rivista nuova intitolata Storica National Geographic. Come dice il nome, è diciamo un'emanazione alla costola della mamma più famosa, che si chiama National Geographic. Sì. Però diciamo così, agli nostalgici vi avvertiamo, vi ricordate quando la televisione era ancora bella, almanacco del giorno dopo che andava in onda la sera, prima del telegiornale? Ecco, Giorgio Rivieccio ne ha curato 500 puntate come autore, perché è giornalista per passione, ha fondato e diretto il mensile Scienza Newton, e un sacco di altre cose, oltre al fatto che ha insegnato comunicazione scientifica alla Scuola Internazionale di Studi Avanzati di Trieste, ha scritto numerosi libri di scienze e di viaggi, ed ora ci dirà, partendo per questo nostro percorso verso un cielo provvisorio ma comunque importante. Da dove partiamo? Partiamo da un architetto, perché la frase che ho portato, la frase che ci porta verso il cielo e poi delle volte ci fa anche tornare giù, l'ha scritta un architetto. Parliamo di storia, e quindi un architetto può sembrare fuori luogo, comunque non era un architetto qualunque. Gio Ponti, che credo gli ascoltatori conoscano bene, è stato uno dei personaggi più importanti dell'architettura dello scorso secolo, autore tra l'altro del grattacielo Pirelli di Milano. Se posso fare una notazione personale, anche della casa in cui abito, ma non è per questo che lo stimo e lo considero un grande personaggio. Nel 57 Gio Ponti scrisse un libro che si chiamava Amate l'architettura, che già dal titolo fa capire che qualcosa un po' sui generis, qualcosa di diverso dal solito. È un saggio, ma è un saggio strano, perché è una serie infinita di annotazioni, spesso scollegate, spesso ridondanti. Uno stesso concetto lo si ritrova a distanza di pagine, espresso più o meno con le stesse parole ma con delle sfumature diverse. Cioè è davvero un taccuino di idee, di appunti, che varrebbe la pena di conoscere. E fra le tante cose di cui Gio Ponti si è occupato in questo libro, si è occupato anche di storia. E quindi la frase che porto è legata naturalmente al tipo di lavoro che sto facendo adesso, e secondo me merita di essere conosciuta. Allora, cosa dice Gio Ponti? Non esiste il passato. Tutto è simultaneo nella nostra cultura. Esiste solo il presente, nella rappresentazione che ci facciamo del passato e nell'intuizione del futuro. Nella nostra cultura sono simultanei, coesistenti, Bach e Stravinsky, Raffaello e Picasso, Fidia e Moore. Sappho non appartiene a un passato cui non partecipammo, appartiene al presente della nostra conoscenza, apparterrà al futuro. Beh, io la trovo una frase straordinaria, anche perché, diciamo così, fuori da queste schematizzazioni per cui a volte la storia ritorna come il tragico Kyklos dei Greci, insomma, una ruota dell'eterno destino a cui tanti vorrebbero aggrapparsi per sapere, certo, il futuro, temendo più che altro il passato, piuttosto che, diciamo, questa specie di apertura verso l'infinito che poi dopo un quarto d'ora stufa tutti per mancanza di comprensione. E lui pianta dei punti di riferimento. Dei punti di riferimento assolutamente importanti, perché praticamente ci dice la storia è oggi. Noi quello che sappiamo, che impariamo, che leggiamo della storia, poi naturalmente lo trasferiamo nella nostra conoscenza, e quindi nel momento in cui lo apprendiamo vive, continua a vivere come lo vediamo noi. Quindi per questo Raffaello e Picasso sono contemporanei. Addirittura in un altro pezzo del libro Gio Ponti dice: se noi conosciamo prima Picasso e poi Raffaello, cosa peraltro probabile perché dipende un po' dalle esperienze che uno fa, per noi Picasso sarà precedente Raffaello, perché quando vedremo Raffaello avremo già nella testa, nella nostra mente, cosa ha fatto Picasso, cosa ha rappresentato, cosa è stato, e noi come lo abbiamo, diciamo, interiorizzato. e quindi sarà precedente a Raffaello. Sì, poi tra l'altro tutti conosciamo anche un pochettino, tra virgolette, l'opzione culturale, Gio Ponti, e nessuno lo vuole battezzare suo malgrado, però l'idea è fortemente legata anche o parallela anche a quello che spesso ci viene detto, soprattutto ultimamente da quando, grazie alle scienze umane, riusciamo a capire meglio anche la Bibbia, cioè che il tempo di Dio poi in realtà non è né passato né il futuro, è proprio il presente, questa immediatezza dell'oggi. E questa storia non più bacchettona, insomma, non più... Esatto, la storia non è, come alcuni vogliono farci credere, è un baule polveroso, è qualcosa di cristallizzato nel tempo. È una cosa viva perché noi, leggendola, la riviviamo, la mescoliamo alle nostre conoscenze, alle nostre esperienze, e quindi anche per questo motivo poi si protrarrà nel futuro. Gio Ponti dice anche: tutto il mondo ha la nostra età, solo la nostra età. Quindi fa piazza pulita in un certo senso, come diceva lei, dell'idea ciclica dei greci, dei cicli vichiani, della storia che si ripete. Non è che si ripete, c'è. Sì, infatti, viene fatta. Cioè, non è che, diciamo, piomba dall'empiro. La storia c'è e viene costruita attraverso, ora come sempre, attraverso delle scelte e dei comportamenti. Quindi esatto. Non è un destino per nessuno, è uno spazio aperto per tutti. Che sia di ieri o di 1000 anni fa o di 2000 anni fa. O di 1000 anni fa. Ma anche questa contemporaneità a quello che poi culturalmente noi riusciamo a conoscere all'interno della vita, che è, diciamo, tutto sommato anche la grande scoperta dell'Occidente, tutto lo possiamo dire. Certo. Perché la storia non viene chiusa né all'interno di un destino di legge né all'interno di un destino di un libro, viene, diciamo così, lasciata aperta l'interpretazione, e quindi in questo spazio scegliamo di essere, grazie alla libertà, che proprio perché la storia c'è e non ci viene data né come regalo né come condanna, quindi la libertà è una specie di umanissima tragedia che viviamo tutti quanti, ma all'interno di questa riacquisizione della propria coscienza culturale, come ci si situa? Uno studioso di storia come Giorgio Rivieccio, perché noto che ha collaborato anche, sì, a una mitica rivista di storia, Istoria, sì, la grande concorrente di un'altra, esatto, la Storia Illustrata. Storia Illustrata. No, non sono uno studioso comunque, sono un giornalista. Sì, vabbè, un giornalista, diciamo, uno che così, scrive che sulla sabbia, a proposito. Un giornalista che tratta materiali più o meno codificati, anche se poi spesso impropriamente. Quando poi riguarda, alza gli occhi dalla tastiera e guarda questo mondo, la contemporaneità, dove come giornalista lavora, diventa ottimista o pessimista? Ma io di natura sono ottimista, quindi tendo poi a portare questa cosa in ogni attività, in ogni cosa che faccio. E poi comunque, come dicevamo prima, la storia non è qualcosa di cristallizzato, di immobile, fa parte delle nostre esperienze, così come l'arte. Anche guardando un quadro, noi lo vediamo oggi, lo vediamo, lo interpretiamo con quello che noi oggi sentiamo, pensiamo, con quello che vorremmo fare di noi stessi, della vita. C'è un utilizzo fortemente ideologizzato delle categorie della storia accademica, quella che viene, diciamo così, paludata e definito storico da una parte. Sì, è davvero un gran peccato. Mm. E poi c'è un abuso lessicale molto, molto, molto facile per noi altri italiani di appiccicare il qualificativo storico a tutto ciò che magari poi è semplicemente provvisorio e transeunte, cioè per volerlo rigettare verso il paludamento e non verso l'appropriazione. Vabbè, oggi andiamo per superlativi, quindi anche una partita di calcio di Serie B diventa storica, ma qualsiasi cosa diventa drammatica. Una crisi epocale, anche se non parlo di quella economica attuale perché lo è, ma diciamo in tutti gli altri casi tendiamo un po' ad esagerare. Ma partire con Storica National Geographic è alle prime edizioni, credo. Sì. Quanti numeri sono usciti finora? Sono usciti 3 numeri, il terzo da qualche giorno in edicola. E da una cadenza? Mensile. Quindi partire con... ed è solamente italiana come esperienza oppure qualcosa che abbraccia? C'è una consorella spagnola che si chiama Historia con l'H, perché nel paese loro ha gli stessi contenuti così. Oppure sì, condividiamo molti contenuti, poi naturalmente tante cose vengono fatte in Italia per l'Italia, perché non so, la storia romana, la storia greca, greco-romana deve essere scritta, spiegata da italiani per gli italiani, quindi un articolo anche di storia romana scritto da uno spagnolo per il pubblico spagnolo è diverso da quello che si scrive, che può scrivere uno storico italiano per gli italiani, perché abbiamo un diverso tipo di conoscenza, di ricordo storico. Ma gli spagnoli, mi è capitato di parlare con degli spagnoli studiosi di diritto romano giustinianeo, che erano convinti che la storia di Roma iniziasse con il Codex Romanorum Visigotarum, cioè quando sono arrivati, cioè dopo, quando era è iniziata dopo che era finita. Dopo che era finita, quindi a partire da quel momento era tutto serio, mentre prima era tutto mitico e leggendario. Prima solo banchetti grandi feste. Banchetti e grandi feste, qualche viaggio così di Plinio, ma solo, diciamo, un divertimento tra gentiluomini, mentre poi dopo è iniziata la storia vera. Ma questa coperta anche della romanità che ognuno tira per il proprio verso funziona ancora oppure è una mania solo latina ormai? Ma credo che comunque dopo il fascismo la coperta della romanità si sia ristretta notevolmente. Io di questo ne tengo conto, tanto che per esempio sul giornale, in questi 3 numeri, abbiamo parlato più che dei fasti dell'epoca romana, dei nefasti o di una storia come appunto la caduta dell'impero romano, o storie parallele un po' meno conosciute, ma non solo apoteosi. Bene, questo era l'aspetto, diciamo, realistico, perché abbiamo per 10 minuti con molta fatica tenuti i piedi per terra, tanto era il nostro entusiasmo per andare verso l'ottimismo di Giorgio Rivieccio. Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo e di Giorgio Rivieccio, giornalista, scrittore, innamorato della musica e di tante altre cose che tenteremo ancora di dire in questa nostra seconda parte, visto che lo abbiamo ancora per guida. Diciamo innanzitutto che è il direttore di Storica National Geographic, il terzo numero è quello di maggio, lo trovate in edicola a 3,50 euro. Vi leggo velocemente ciò che la copertina promette: colei che fa splendere il sole, Nefertari, regina, amante e compagna. La visita guidata di Storica, Petra e il regno dei Nabatei, Romolo Augustolo e la fine del mondo antico, l'ultimo imperatore, vita quotidiana, Tecnoctitlan, il Messico prima dei conquistadores. Beh sì, per forza, dobbiamo spaziare. Bene, adesso dobbiamo tornare verso il nostro cielo. Da dove partiamo? Partiamo da un'altra frase? Certo. Questa volta andiamo un po' più indietro nel tempo, andiamo nel 600. John Donne, che è stato, oltre che un uomo di chiesa, ma un poeta, uno scrittore, contemporaneo di Shakespeare, tanto per capirci, avevano 7 anni di differenza, ha scritto tantissime cose, fra cui questa frase che adesso vi dico, che ad alcuni non suonerà nuova, perché 2 frammenti di questa frase sono diventati famosissimi, forse anche troppo, insomma un po' anche un tormentone. E dice John Donne: nessun uomo è un'isola, completo in se stesso. Ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. Se anche solo una zolla venisse lavata via dal mare, l'Europa ne sarebbe diminuita. Come se le mancasse un promontorio, come se venisse a mancare una dimora di amici tuoi o la tua stessa casa. La morte di qualsiasi uomo mi sminuisce, perché io sono parte dell'umanità. E dunque non chiedere mai per chi suona la campana, suona per te. E qui quindi, se non avessi paura di passare per ignorante, direi John Donne, chi era costui? Però, diciamo, non lo dico, dico che Nessun uomo, un'isola è il titolo di una famosa opera di Thomas Merton, un americano, un monaco cistercense, trappista, molto importante nella storia della mistica contemporanea. E poi c'è Per chi suona la campana di Hemingway, pure esatto. Lui copione. Anche lui copione, anche Johannes Mario Simmel, che non è stato, è morto da poco, uno scrittore famosissimo di romanzi, diciamo, abbastanza popolari, austriaco, che ha scritto un libro intitolato Nessun uomo è un'isola, Niemand ist ein Insel. Insomma, questa frase è stata molto, secondo me, finita anche nei Baci Perugina, nei foglietti lì. Ma la cosa, secondo me, interessante di questa frase che io ho portato non è tanto per parlare di John Donne, quanto per vedere quanto questa affermazione sia attuale, soprattutto oggi. Parlavamo prima di crisi finanziaria globale, ne parliamo adesso di non lo so, dell'episodio delle Torri Gemelle. Diciamo che negli ultimi anni, mai come negli ultimi anni, ci siamo resi conto di essere tutti nella stessa barca, che poi è quello che voleva dire lui, che qualsiasi, se muore una persona, noi ci sentiamo, noi ne siamo sminuiti, e al contrario, se qualcosa di positivo succede da una parte, anche noi possiamo arricchirci. Pensiamo appunto a queste tragedie che ci hanno toccato ultimamente, pensiamo però, anche senza voler essere così catastrofisti, al problema ambientale. Credo ancora di più, perché uno può dire la crisi economica è causata dai banchieri americani, non c'entro niente, io stavo per conto mio, quelli hanno fatto un tale casino che poi ne sono rimasto coinvolto. Invece, spostando un po' il discorso al problema ambientale, credo che da alcuni anni nessuno di noi possa più ignorare il fatto che con il suo comportamento qualcosa fa, nel bene o nel male, naturalmente, all'ambiente globale. Poi se ne può infischiare, questo è un altro paio di maniche, ma credo che questa consapevolezza ci sia. Fino a qualche anno fa, fino a 10 anni fa, non c'era. E questo, secondo me, è quello che voleva dire proprio il nostro canonico, il nostro prete inglese metafisico. Però riflettevo anche alle tue riflessioni precedenti, quelle di Gio Ponti, quando diceva in realtà sia Raffaello che Picasso, nel momento in cui li acquisisco nelle mie emozioni, diventano contemporanei. Saffo e qualunque altro poeta diventa esperienza di oggi. Già John Donne molti secoli fa annunciava praticamente questa grande sensibilità: ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto, se anche una sola zolla venisse lavata via dal mare l'Europa ne sarebbe diminuita. E perché poi i poeti e i profeti sono sentiti così, così raramente, insomma. È un errore. È un grave errore. Io credo che, secondo me, bisognerebbe leggere un po' più di poesia questo mondo. Adesso sveliamo un piccolo segreto, perché Giorgio Rivieccio è anche direttore delle riviste di enigmistica della RCS Periodici, cioè dirige Domenica Quiz Mese Corriere Enigmistica. Esattamente. Beh, questa, diciamo così, è un'esperienza che va raccontata, perché è la mia vita parallela. Stare nel cuore di ciò che costituisce, diciamo così, l'hobby preferito di tanti milioni di persone. È un'esperienza bellissima, davvero, occuparsi direttamente di questi giornali che io di cui sono stato lettore e solutore da ragazzo, perché naturalmente se ho questa passione, chiamiamola passione, competenza, come si vuol chiamare, uno ce l'ha o non ce l'ha, è difficile improvvisarsi enigmisti o appassionati di enigmistica. Generalmente è una cosa che uno si porta dietro dall'adolescenza, dalla giovinezza. E devo dire, un'esperienza bella, perché mi ha fatto scoprire un mondo che da lettore semplicemente uno non immagina, questo mondo di enigmisti che sono personaggi davvero incredibili, che vivono per creare giochi, per creare parole crociate, che si vedono solo fra loro, che parlano solo di definizioni, di schemi, È davvero un microcosmo, non neanche tanto micro, perché i giornali di enigmistica vendono complessivamente 80 milioni di copie all'anno, quindi direi un bel po'. Però è un mondo molto, molto ristretto, molto chiuso, dove è difficile entrare se non se ne fa parte in maniera, diciamo, attiva. Perché, voglio dire, lei ha mai sentito intervistare autori di Cruciverba? Quasi mai, a parte qualche nome. Ma non... no, solo qualche un anno e mezzo fa fu annunciata la dipartita, come si dice, di un famoso autore di enigmi e Cruciverba. Se ne erano ricordati solo nell'ultimo giorno della sua vita. Ecco, quando suonava la campana. Quando suonava la campana. E invece è un mondo che bellissimo, fatto di regole particolari, di passioni, davvero di monomanie in un certo senso, perché chi fa queste cose sono prevalentemente appassionati che lo fanno più per diletto che per lucro. Cioè io ho scoperto una cosa, che il vero godimento del creatore di Cruciverba è crearli. Poi il fatto che vengano pubblicati anche col suo nome è importante, ma meno. È davvero una cosa che si risolve nell'atto stesso della creazione. Domanda cattivissima a cui bisogna rispondere con sì o con no. Non siete entrati, cioè, non vi è venuta un po' di invidia quando è scoppiato il fenomeno Sudoku? No, perché... Allora, il Sudoku ha poco a che fare con l'enigmistica, cioè per noi, io mi metto anche dalla parte del pubblico, lo è, perché poi i giornali sono quelli, però abbiamo scoperto che chi fa le parole crociate, che sono, diciamo, il classico gioco enigmistico, il gioco enigmistico per eccellenza, non è che ami tanto il Sudoku, perché lì si gioca con i numeri e con la logica, mentre le parole crociate richiedono tutto un altro tipo di forma mentale, che appunto la parola, il linguaggio, gli incroci, è davvero un'altra mentalità, quindi non ne siamo invidiosi. I giapponesi siano avvertiti, il gruppo degli enigmisti resistono e resisteranno sempre. Esatto. Giorgio Rivieccio è direttore di Storica National Geographic, il numero di maggio è in edicola, è una bellissima rivista, ci troverete anche delle riflessioni su Carlo Magno, Signore della Guerra, e forse questo permette anche di reinquadrare molto oggettivamente tanti discorsi che vedrete fare o sentite già fare sui giornali da mesi sulle radici del continente o meno, e diciamo così, un'informazione che rende la storia contemporanea, perciò, come diceva Giorgio Rivieccio, la storia è quella cosa che c'è, che esiste. Grazie per averci seguito, grazie Rivieccio, grazie Riccardo Silvi, grazie Alessandro Chiappini e grazie a voi per l'ascolto. A risentirci.